in primo piano. Eh sì, ecco tutte le accuse a Bertolaso per il Corriere della Sera, corruzione indagato Bertolaso per Repubblica, appalti indagato Bertolaso per La Stampa, per Il Messaggero, terremoto giudiziario per Bertolaso, questo è Il Giornale, protezione e corruzione, Il Fatto Quotidiano. Poi, ce n'è uno di Libero, ma me lo riservo tra poco perché uno dei capitoli riguarda le donne. Sì, questo è il tema di apertura un po' di tutti i giornali. L'apertura invece finanziaria del Sole 24 Ore oggi è importante, si apre il vertice dei 27 leader europei. Parigi e Berlino aiutano Atene, è il tema della Grecia che da giorni domina, insomma, i conti pubblici della Grecia e non solo di alcuni paesi europei in primo piano per quel che riguarda la finanza europea e l'economia. Ma insomma partiamo da Bertolaso indagato per corruzione, leggiamo sul Sole 24 Ore a pagina 6 l'inchiesta di Firenze. Berlusconi che respinge le dimissioni, una persecuzione infondata. Mentre, eccole lì, le intercettazioni. Eh sì, sono già pieni i giornali di tutte le intercettazioni. D'altronde, scrive il Corriere a pagina 2, tutto inizia da un'intercettazione. Un architetto che parla di vergognose ingerenze della politica negli appalti, un carabiniere che ascolta, affari edilizi poco chiari per la lottizzazione di Castello, terreni d'oro accanto all'aeroporto di Peretola, e poi l'inchiesta salta da intercettazione a intercettazione finché si arrivano a quei 327 milioni di euro di fondi pubblici spesi per il G8 che doveva svolgersi alla Maddalena e poi si è svolto, come sapete, all'Aquila dopo il terremoto, appalti per i magistrati sospetti assegnati con la filosofia dei favori in un inciucio colossale tra imprenditori e dirigenti dello Stato. E allora le intercettazioni a pagina 3 del Corriere della Sera, le carte dei magistrati fiorentini svelate da Fiorenza Sarzanini, che quando insomma si tratta di inchieste giudiziarie, di intercettazioni, è sempre molto abile evidentemente nel trovare le fonti per poi pubblicarle sul Corriere della Sera. C'è anche il capitolo Donne e Relax. Ebbene sì, questo dà lo spunto al titolo di Libero che vi avevo preannunciato e che è qui. La protezione civile va a mignotte. Lucciole e appalti, un terremoto giudiziario travolge l'eroe dell'Aquila Bertolaso, indagato proprio mentre stava per diventare ministro. Perché? Perché nel gioco, insomma, dei favori, degli appalti, ci sarebbero anche in cambio prestazioni sessuali, sia per Bertolaso sia per le altre persone che sono state, alcune persone che sono arrestate, che sono indagate nella stessa inchiesta. In particolare, si legge il Corriere pagina 3, viene fatta, per esempio, il 14 dicembre 2008 viene fatta aggiungere una donna di nazionalità brasiliana di nome Monica che intratterrà Bertolaso, e poi ancora il capo della protezione civile usufruirà delle prestazioni di tale Francesca almeno 12 volte tra il 2008 e il 2009. C'è anche proprio lo scambio di una telefonata di Bertolaso il 21 novembre 2008 che parla con tale Rossetti, dice: sono appena entrato dagli Stati Uniti in questo istante, se oggi pomeriggio Francesca potesse io verrei volentieri una ripassata. Insomma c'è anche questo e c'è un po' ovunque, ville, escort, auto di lusso, Balducci e i suoi amici, una corruzione gelatinosa, e anche Carlo Bonini a pagina 6 e 7 di Repubblica, Bertolaso, il giovane anemone che è un imprenditore, i contanti e i favori sessuali. Questo è un capitolo, c'è da dire che c'è l'analisi sia di chi è Bertolaso, un suo profilo, tante analisi anche di quello che sono i rapporti all'interno della maggioranza, perché per esempio si legge sul Messaggero non tutti si sono in qualche modo disperati all'interno del governo. Sapete, Bertolaso è una persona che è anche molto potente, il metodo Bertolaso non gradito da diversi ministri, scrive Marco Conti sul Messaggero a pagina 5, mezzo governo è freddo, anche tra i ministri che ieri mattina si sono prestati alla clac c'è chi gongola per l'avviso di garanzia e spera che sia questa l'occasione per ridimensionare i poteri del sottosegretario che secondo le male lingue sta trasformando Palazzo Chigi nel più grande ente a appaltatore italiano. Insomma, questo è il tema, lo trovate pieni giornali, paginate e paginate, ma io vi ricordo che alle 9 se ne occuperà Oscar Giannino, il 9 in punto, della protezione civile, dell'inchiesta, della cosiddetta protezione civile SPA. Insomma, di questo tema dalle 9 alle 10 Oscar Giannino ne parlerà e dunque vi rimando per gli approfondimenti. L'altro tema invece, che è il tema del nostro sondaggio e che è, diciamo, la seconda notizia politica, più strettamente politica del giorno, è quella appunto riguardante la par condicio. Rai, giustizia e famiglia, show di Berlusconi. Ieri Berlusconi è andato alla presentazione del libro di Bruno Vespa, Donne di cuori, ha parlato di tutto, anche di par condicio, appunto, di questo nuovo regolamento approvato dalla Commissione Vigilanza Rai, che sostanzialmente è stato bocciato da tutti i maggiori conduttori di talk show, perché questa legge prevede sostanzialmente che nell'ultimo mese, dal 28 febbraio al 28 marzo prima delle elezioni, o vanno nei talk show, che ne so, Anno Zero, Ballarò, Porta a Porta, In Mezz'ora, o vanno tutte le forze politiche, oppure nessuno. Cioè, insomma, o si fa la vecchia tribuna politica, quella del mitico Iader Iacobelli, oppure no, perché la par condicio vuole questo, o tutti o nessuno. E Berlusconi dice: la par condicio per me è da abolire, è liberticida, però su questa cosa dice: però almeno questo è un regolamento che ci vuole. E in TV si vedono risse da pollaio, ha detto Berlusconi. Ovviamente ci sono i commenti, per esempio La Stampa intervista Alessio Vinci, tra l'altro il conduttore di Matrix, perché qualcuno dice: Mediaset, beh, perché per Repubblica anche Mediaset dovrebbe adeguarsi e potrebbe adeguarsi. E dunque l'autority avverte, infatti, senza correzioni i talk show saranno sospesi anche a Mediaset. Dunque Berlusconi da una parte dice: non c'è scandalo in questo regolamento perché ci sono trasmissioni pollaio, però fosse per me la par condicio, una legge liberticida, la abolirei. Berlusconi vorrebbe sostanzialmente che siano rappresentati i partiti in proporzione rispetto al peso che hanno, cioè un partito che ha un 1% non può avere la stessa rappresentazione in TV e la stessa presenza di un partito che ha il 20, il 10, il 30%. Alessio Vinci di Matrix dice: giusto dare spazio a tutti, ma non con il bilancino tra le mani. Questa è un'intervista su La Stampa. Ovviamente sotto accusa è un onorevole che sarà tra l'altro nostro ospite, vale a dire il radicale eletto nel PD Beltrandi, che ha proposto sostanzialmente questo regolamento ed è stato appoggiato, un po' paradossalmente, in questo appoggio bipartisan e trasversale, dal PDL e dalla Lega, che hanno voluto questo regolamento che, ripeto, rischia di mettere il bavaglio ai talk show nell'ultimo mese prima delle elezioni. Ma Beltrandi ci spiegherà perché secondo lui è giusto questo regolamento, come ha detto Berlusconi. Comunque ne parleremo alle 8.30. Che ne pensate? La par condicio va abolita? Andrebbe abolita, come ha detto Berlusconi? Votate sul sito. Berlusconi, tra l'altro, che viene notato sia dal Corriere che dall'Unità, è anche abbastanza ieri nella cena per lanciare la Polverini, appoggiare la Polverini, la candidata nel Lazio, si è lasciato andare ancora barzellette, battute. Per esempio una: quando vedo delle donne, belle donne, io perdo il filo. Preferite così o preferite quegli altri? Che ne so, preferite Marrazzo? Perché cito questa battuta su Marrazzo? Perché Marrazzo oggi torna sulle prime pagine dei giornali. Marrazzo ci prova, voglio tornare. Dove? In Rai. Così è su Libero, ma anche sul Corriere della Sera. L'ex governatore si dice pronto, ma la TV di Stato, scrive Libero, non sa dove collocarlo. Sostanzialmente, a partire dal 1 marzo sono a disposizione dell'azienda, avendo terminato il mio mandato politico. Questa è la lettera che Piero Marrazzo ha fatto recapitare al direttore generale della RAI, Mauro Masi, che sostanzialmente dice: voglio rientrare in RAI, voglio riprendere il mio posto, ero in aspettativa, non sono più in politica dopo lo scandalo che l'ha travolto, i transessuali. E dunque Piero Marrazzo vuole tornare alla RAI. Un altro tema che trovate soprattutto sui giornali come l'Unità, il Manifesto, il Secolo d'Italia, Europa, che è il quotidiano del PD, Liberazione, sono il tema dell'informazione e i tagli all'editoria, perché addirittura è l'apertura di tutta pagina nel manifesto. Berlusconi impone il voto di fiducia sul maxiemendamento, c'è un lungo comunicato, sostanzialmente è stato sancito la fine del diritto soggettivo al contributo pubblico del quale finora hanno goduto chi? Il manifesto e altre testate come l'Unità, Liberazione, Il Secolo d'Italia, La Padania, Avvenire, Europa, tante altre testate, e dunque insomma il rischio è dei tagli all'editoria. Saliamo sul tetto, questo è l'invito del manifesto, un invito, come dire, protestiamo, ma appunto sul Secolo d'Italia, sull'editoria La partita da riaprire, su Europa scarica barile di governo, mannaia sui fondi dell'editoria, è un tema annoso. La questione dei tagli o dei finanziamenti all'editoria, i finanziamenti pubblici all'editoria, che erano stati tolti, in realtà poi Tremonti aveva detto ma verranno tranquilli, verranno reinseriti nel decreto mille proroghe, pare che nel decreto mille proroghe appunto non ci sia niente, nessuna traccia di questi fondi all'editoria, e dunque il grido d'allarme di tutte queste testate che oggi trovate ben lanciato per dire attenzione, perché qui rischiamo di chiudere, è un colpo alla libera informazione. Parigi e Berlino aiutano Atene, come detto questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Oggi c'è il salvataggio della Grecia che sarà sicuramente al centro del vertice dei 27 leader europei a Bruxelles, perché è attesa una decisione politica per definire poi cosa fare. Piano franco-tedesco per Atene, sul Sole 24 Ore tra l'altro c'è un'intervista a Ottmar Issing. Chi è? 73 anni, ex capo economista della Bundesbank e della Banca Centrale Europea, e che è molto scettico, scrive Beda Romano in questa intervista, rappresenta una visione condivisa da molti tedeschi. Germania, che si è detta favorevole a, appunto, oltre alla Francia, al salvataggio di Atene. Mi preoccupa, scrive e dice Issing, mi preoccupa il fatto che i politici sotto pressione non si rendano conto delle conseguenze di lungo periodo delle loro decisioni. La zona euro è una svolta pericolosa. Una volta violata la regola sul non salvataggio, così come scritta nei trattati, la diga è aperta. Questa è una regola sulla quale non si può e non si deve fare alcun compromesso. Dunque, scettico Issing che dice attenzione, aiutiamo la Grecia e poi la diga è aperta. La posizione è ben diversa. È quella di Tommaso Padoa-Schioppa, l'ex ministro delle finanze. In un'intervista al Corriere della Sera a Orsola Riva dice: certo, i salvataggi gratis non vanno bene, ma l'Europa non può abbandonare Atene. La crisi o disfa o fa, dice Padoa-Schioppa, e la partita è aperta, ma se disfa è il disastro. Il caso greco è sul crinale tra il fare e il disfare. Quello che è successo nelle ultime 72 ore è la presa di coscienza, soprattutto in Germania, che la Grecia deve essere presa per mano, non per un fatto di altruismo, ma perché c'è un interesse tedesco, francese, olandese a farlo, a evitare che inizi una reazione a catena. Ecco allora che Padoa-Schioppa cita la stessa reazione a catena, dice qua bisogna intervenire per evitarla. Contrariamente a quanto dice Ottmar Issing, ora ci si è resi conto che lasciare cadere la Grecia non è saggio, come sarebbe irresponsabile lo Stato che lasciasse fallire una sua regione. Ma attenzione, ecco l'avviso finale di Padoa-Schioppa, né lasciar naufragare né fare salvataggi gratis. La Grecia deve accettare una limitazione di sovranità. Questo è il tema di cui si discute oggi. Siamo alle segnalazioni conclusive, perché purtroppo il tempo è sempre meno. Il giudice e la sentenza pronta prima del processo. Lo leggo dal Corriere della Sera, da Luigi Ferrarella. È una vicenda un po' bizzarra, sicuramente, se non inquietante. Sarà l'incubo di essere valutati sulle statistiche, sarà l'intento di fare sempre più processi, l'ossessione di farli sempre più in fretta. Fatto sta che sostanzialmente è successo questo ieri al Tribunale di Milano. Il giudice ha detto: prego avvocato, consulti il fascicolo, intanto io mi ritiro. E solo che l'avvocato non è che ha consultato solo il fascicolo, ha frugato nelle carte del giudice, quelle private, e ha scoperto una bozza di sentenza già scritta al computer, priva di intestazione, prima ancora che sostanzialmente ricalcava quella del verdetto di primo grado, prima ancora che si fosse concluso il processo, ovviamente. gran putiferio. La vicenda è anche molto analizzata su Libero con grande enfasi in prima pagina, la sentenza scritta prima del processo, questa è la giustizia delle toghe milanesi. Vabbè, c'è un po' di generalizzazione, sta di fatto che questo è. Voglio andare alla segnalazione conclusiva, perché è una cosa di cui si parla sempre troppo poco, colpevolmente, che è molto interessante: la donazione degli organi. C'è un emendamento al decreto mille proroghe voluto dalla senatrice Bianconi e che prevede la donazione di organi sarà indicata sulla carta d'identità, cioè ogni italiano potrà segnalare sulla carta d'identità che fare dei propri organi in caso di morte. Un ok arrivato nel decreto mille proroghe. Il ministro Fazio su Repubblica dice: io non ne sapevo nulla di questo emendamento, ma sono comunque favorevole, è un'iniziativa positiva, lo dico da medico. E anche sul Corriere: donazione di organi, l'assenso o anche il no, ovviamente uno può mettere l'assenso o il no sulla carta d'identità, la norma inserita nel mille proroghe. In Italia se ne discute da 22 anni. Ci sono state varie leggi, il silenzio assenso, insomma passi avanti, passi indietro. Dovrebbe arrivare questa novità, la possibilità di indicare sulla carta d'identità se si è favorevoli o no alla donazione di organi.